Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche che per dialogare con me, oltre che attraverso la mail, c'è anche il mio blog. Si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Blog nel quale parlo spesso, spessissimo, di criminalità organizzata, che del resto è anche oggetto delle mie inchieste sul Sole 24 Ore. Lo sapete ormai che da circa 4 anni al Sole e 2 anni in radio i temi della mafia, della camorra, dell'andrangheta sono nel mio cuore, perché credo che ciascuno deve fare la propria parte per squarciare quei tanti veli di ipocrisia che sulla criminalità organizzata ci sono. Più la denunciamo e probabilmente più passi in avanti riusciremo a fare. Come sapete, domani si celebra la giornata delle memorie delle vittime di mafia a Napoli, ed è una giornata molto importante. È organizzata da Libera, di Don Luigi Ciotti, che sta spendendo la sua vita contro le mafie, ma molte altre sono le persone che stanno spendendo la propria vita umana e professionale e sociale per lottare contro la criminalità organizzata. Tra questi, nel suo ruolo istituzionale di commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle mafie, c'è Antonio Maruccia, che noi abbiamo il piacere di avere collegato con noi. Buongiorno Maruccia. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E tra chi da una vita lotta contro le mafie c'è anche l'ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, l'onorevole Beppe Lumia. Buongiorno Lumia. Buongiorno. Con Lumia ci conosciamo da una vita, così come con Maruccia, ma io do istituzionalmente de lei ad entrambi, siete d'accordo, no? Certo, perché bene. Di fronte ai radioascoltatori è giusto tenere questo profilo. Allora Maruccia, partiamo da lei. Beni confiscati alla mafia. Nella sua relazione io leggo una cosa molto molto interessante, vale a dire è aumentato del 70% circa nel periodo di vita del suo ufficio la destinazione dei beni confiscati alla mafia per uso sociale. Questo è un dato positivo, vogliamo commentarlo Maruccia? Come ci insegna Don Luigi Ciotti, dobbiamo mettere in luce il bene che c'è accanto a tante, al tanto che pure c'è da fare. Noi abbiamo come ufficio svolto un'azione di impulso sulle amministrazioni per velocizzare le procedure, e nel 2008 ben 1000 beni, più di 1000, il 54 mi pare, sono stati destinati, cioè sono arrivati dopo la confisca gli enti che li devono utilizzare. È un dato confortante che sta a significare che l'impegno continuo e costante sulle amministrazioni può portare, laddove possibile, dei risultati. Ecco, lo stesso Maruccia, io lo ricordo ai nostri radioascoltatori, nelle relazioni negli scorsi anni, comunque in dibattiti pubblici, denunciava le lentezze del sistema che possono portare anche a 17 anni prima che un bene sequestrato poi venga definitivamente confiscato e consegnato alla collettività. Maruccia, però le chiedo questo: ancora oggi Bassolino alle agenzie di stampa detta il suo grido d'allarme dicendo facciamo in fretta. Allora le chiedo, c'è un parlamentare che ci sta ascoltando, che cosa si sente lei di suggerire al governo e alla commissione parlamentare antimafia, al Parlamento tutto, per fare in modo che il tempo sia sempre sempre più stretto? Intanto approvare quella disposizione che era già frutto di una indicazione della Commissione parlamentare antimafia, sin dai tempi in cui era presieduta dall'onorevole Giuseppe Lumia, e cioè di mettere al centro i prefetti nella procedura di destinazione dei beni, perché nelle zone a forte presenza mafiosa lo Stato deve presentarsi con il massimo di autorevolezza e di forza, perché accanto alla lentezza delle procedure vi sono anche situazioni di occupazione di beni o di minacce che devono essere rapidamente superate. Questo dato della riforma del procedimento di destinazione, con assegnazione ai prefetti del potere di destinazione, certamente contribuirà a velocizzare le procedure. Bene, allora a questo punto io direi di passare la parola a Beppe Lumia, che personalmente ritengo una delle poche persone che all'interno della commissione parlamentare antimafia abbia qualcosa da insegnare agli altri. Se andrete sul mio blog troverete anche un articolo scritto molto critico sulle prime giornate dei lavori della commissione parlamentare antimafia. Allora chiedo a Lumia che cosa può fare la sua commissione, cosa può fare il Parlamento per venire incontro alle esigenze che abbiamo sentito da Maruccia. Dedicare il tempo necessario e velocemente al tema dei beni confiscati. Attraverso i beni confiscati possiamo dare delle mazzate incredibili alle organizzazioni mafiose e possiamo ottenere risorse positive in questo momento di crisi per creare sviluppo vero, produttivo, occupazionale sui territori. Ecco perché bisogna avere più coraggio, bisogna accorciare i tempi processuali, creare un processo particolare per i beni confiscati che deve trovare una soluzione in un anno attraverso tutti i gradi che invece oggi ci portano a più di 10 anni. Abbiamo fatto dei passi in avanti al Senato facendo in modo che l'indicazione dei prefetti diventasse legge al Senato, ci auguriamo presto alla Camera, e che anche gli eredi potessero essere colpiti per evitare che i boss mafiosi, una volta deceduti, tutte le loro ricchezze possono ritornare nelle mani degli eredi attraverso di loro delle organizzazioni mafiose. E ben ha fatto a ricordarlo Lumia. Allora a questo punto io direi di spostare leggermente l'ottica sul tema più generale della giornata che si celebra domani, che Radio 24 seguirà poi tutto il giorno con numerosi collegamenti, interviste a vari personaggi coinvolti. Martedì 17 marzo 2009 sul Sole 24 Ore, del quale sono inviato, ho fatto una approfondita inchiesta sulla pervasività dell''ndrangheta a Milano. Scrive Enzo Macri, sostituto procuratore nazionale antimafia, che la capitale dell''ndrangheta è Milano, dove opera un''ndrangheta di terza generazione, sapete, 20 arresti alcuni giorni fa. Allora chiedo a Lumia e a Maruccia, ma cosa bisogna fare per svegliare gli italiani e fargli capire che gli investimenti in riciclaggio qui sono, al nord? E non dimentichiamo che nel 2015 ci sarà l'Expo qui a Milano. Lumia, partiamo da lei. Sì, bisogna fare quello che nella storia del nostro paese non abbiamo avuto mai il coraggio di fare. Prendere l'antimafia e farla diventare una vera priorità. Intorno a questa priorità, dotarsi di un progetto, ad esempio contro l''ndrangheta, bisogna organizzare un sistema di controllo del denaro, cioè di tracciabilità del denaro che nel nostro paese non abbiamo. Noi abbiamo il sistema per colpire il riciclaggio delle cosiddette segnalazioni sospette, cioè l''ndrangheta va in banca, va nelle società finanziarie, fa tutte le operazioni che vuole e poi bisogna segnalare queste cose sospette, che è un sistema che non ha dato nessun risultato. Bisogna invece colpire il riciclaggio conoscendo l'origine del denaro. In tutte le società del mondo avanzato, a capitalismo avanzato, a democrazia liberale, questo risultato si può ottenere. In Italia ancora no. Assolutamente. Io ricordo così che una delle prime cose che fece il giudice Falcone quando da Trapani arrivò a Palermo fu proprio quello di richiedere i conti correnti agli istituti bancari, che rimasero di sasso perché una cosa del genere non era stata mai fatta. E di lì a poco Falcone e, ricordo, Pio La Torre insistettero molto su questo aspetto. Poi sappiamo che fine hanno fatto, tanto il giudice Falcone quanto Pio La Torre, entrambi uccisi dalla mafia, entrambi ci avevano visto lungo, come sta ricordando adesso Lumia, sulla tracciabilità dei soldi. Sono quelli che vanno inseguiti per risalire alle fonti illecite e alla criminalità organizzata, che, ricordo così anche questo incidentalmente, ogni anno fattura qualcosa come 44 miliardi di euro la sola 'ndrangheta. Passiamo a Maruccia. Allora Maruccia, che cosa bisogna fare per far capire agli italiani che l''ndrangheta non è soltanto a San Luca, che la Cosa Nostra non è soltanto a Palermo e che la Camorra non è soltanto a Casal di Principe? Intanto soprattutto guardando le statistiche dei beni e delle aziende confiscate, vediamo che il Lazio e la Lombardia sono al terzo e al quarto posto e vengono prima della Puglia e della Calabria per numero di aziende confiscate, il che significa che i flussi di denaro, il reinvestimento e l'occultamento del denaro non si ferma nei luoghi, come dire, di insediamento tradizionale, ma raggiunge le zone economicamente più forti del paese, perché lì le possibilità di occultare le ricchezze è più facile. Per svelare l'intreccio fra economia legale ed economia illegale occorre rafforzare la polizia e la magistratura che si dedica a questo tipo di indagine. È ancora insufficiente, come dire, la quantità e la qualità dell'impegno in questa direzione. Occorre una polizia specializzata, una polizia giudiziaria specializzata, una magistratura specializzata che possa indagare a fondo in un settore che non è semplice, è difficile individuare i flussi di denaro illecito. Bene, io la interrompo, Maruccia, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Io invito tutti i radioascoltatori a seguire domani Radio 24, il Radio Day dedicato alla giornata in memoria delle vittime di mafia. Vi ricordo anche un sito, oltre quello di Radio 24, anche quello di Libera, www.libera.it. grazie in regia a Filippo Reggi, in studio Laura Fagin, ai nostri ospiti Maruccia e Lumia, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.